Blog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Viso sorridente, un dolce ghiotto tra le mani, l'aria spensierata di chi non ha pesi sul cuore. La donna dall'aspetto sereno che posta le sue immagini su Facebook è la stessa che 9 anni fa, il 26 aprile del 2007, a Roma, uccise la 23enne Vanessa Russo conficcandole la punta di un ombrello in un occhio dopo un battibecco in metropolitana e che da alcuni mesi godeva della semilibertà. Ma il magistrato di sorveglianza di Venezia, Vincenzo Semeraro, quando ha visto quel profilo Facebook con le foto di Doina Mattei in costume al Lido, ha deciso che la trentenne romena dovesse tornare a tempo pieno nel carcere lagunare della Giudecca. E così è stato. Di giorno lavorava in una cooperativa di Venezia, la notte tornava a dormire in carcere. Su Facebook si faceva chiamare Daniela Bis, un nome di fantasia, si era rifatta una vita. Amava mostrarsi sul web vestita di rosso al mare o con le braccia spalancate in segno di gioia, immagini che hanno scatenato un polverone mediatico e che i genitori di Vanessa definiscono pugnalate al cuore. L'ha ammazzata Vanessa, io dico a Doina Mattei, non sarai mai libera, mai, mai, è inutile che posti le foto su Facebook con aria così di sfida. Dopo aver colpito Vanessa conficcandole l'ombrello in un occhio e recidendole un'arteria vitale, l'assassina tentò di fuggire con un'amica minorenne ma venne rintracciata dalla polizia grazie alle videocamere a circuito chiuso della stazione di Termini. Al processo Doina... Questa è la cronaca di Mattino 5 che racconta la vicenda di cui questa mattina noi vogliamo dare alcuni elementi ulteriori di riflessione. È indubbio che Doina Mattei abbia ucciso una ragazza, è indubbio che per questo sia stata condannata, è indubbio che stia trascorrendo in carcere la sua condanna. Era in semilibertà, poteva quindi avere delle restrizioni alla propria libertà personale, è stata rimessa in carcere perché? Perché si è sollevato un polverone mediatico, come si suol dire, sul fatto che lei abbia pubblicato delle foto di lei sorridente, spensierata, come se non avesse pensieri su Facebook. È una novità questa, non voglio dare giudizi di ordine etico e morale, è chiaro che la famiglia dell'uccisa è massacrata nel vedere queste immagini, non si regge al colpo di vedere l'assassina, la propria figlia, sorridente, tranquilla, che si mangia il dolcetto al bar, in costume da bagno sugli scogli del mare, via dicendo, come se nulla fosse. È altrettanto chiaro, però dobbiamo cominciarci a porre dei problemi proprio in ordine di diritto. È una cosa nuova che uno possa esporre se stesso su Facebook, cioè che il suo stato d'animo, il suo modo d'essere possa essere condiviso. Però da questo momento in poi dovremo sempre più considerare che esiste una possibilità di dare visibilità esteriore dei propri stati d'animo e una persona condannata che sta scontando la sua condanna ha diritto o no di sorridere, come appunto qualcuno ha detto, di farsi vedere al mare, di essere allegra, oppure tra le restrizioni della propria libertà deve esserci anche quella di mettersi una sorta di scafandro e non far vedere al mondo che lei ha dei sentimenti anche di allegria, riprovevoli quanto volete, ma comunque che sono dimostrabili attraverso il social network. 800 24 0024. A tra poco. Melog. Cronache meridiane. Guardando la mia condanna sto soffrendo anche io, anche se non si vede. No, non lo so cosa posso fare, più qualsiasi cosa farei, lei non può tornare in vita, è questa la sofferenza più grande. Perché se lei tornerebbe in vita, sarebbe uscita fuori la verità che non ho voluto fargli proprio niente del male. Ho capito, Doina, quindi tu sei pentita? Non è una cosa di pentimento, perché una sofferenza per una persona che muore dalle tue mani, anche se non hai voluto, non è una cosa che ti puoi pentire dopo. Che vuol dire questo, che non ti puoi pentire dopo? Cioè, che tu ti sei pentita subito? Sì, perché non... Cioè, io non riesco neanche adesso da capire dopo 9 anni quello che è successo in quel momento. È perché in un attimo ti cambia tutta la vita. Questa è la voce di Doina Mattei nell'unica intervista che le ha fatto Angela Camuso, che poi sentiremo per Mattino 5. Il problema... si pone in termini nuovi proprio da un punto di vista giuridico, vorrei cominciare proprio con l'analisi tipo giuridico. Allora, il Tribunale Venezia ha stabilito che dopo 8 anni di reclusione, poteva ottenere la misura alternativa alla detenzione, quindi poteva stare fuori di giorno e doveva stare dentro di notte. Dalle 22 alle 6 del mattino doveva stare in carcere, il resto del tempo poteva andarsene in giro. L'avvocato di Doina Mattei dice che ha presentato un'istanza verso il Tribunale di Venezia perché dovranno discutere del fatto che nell'ordinanza alternativa alla detenzione non c'era scritto che non potesse essere messa la sua foto su Facebook. È qualcosa di totalmente nuovo. Essere su Facebook corrisponde a essere veramente nel mondo. Faccio un'ipotesi surreale. Doina Mattei, comunque, dalle 22 alle 6 di mattina, era sì reclusa dentro il carcere, ma presente comunque nel suo profilo Facebook. È questo il termine della novità che bisognerà probabilmente considerare in un ordinamento giuridico che tenga conto anche della nostra esistenza nei social network. Avvocato Giuseppe Vaciago, buongiorno. Buongiorno. Ricordo Giuseppe Vaciago, avvocato penalista, partner dello studio Rip Legal, docente di informatica giuridica. Ho posto male nei termini la mia domanda. Io mi chiedo, il giudice naturalmente ha risposto a un cancan mediatico che è uscito, i giornali hanno mostrato le foto di lei in bikini sugli scogli, giustamente questo ha riaperto una ferita dolorosissima nella famiglia della vittima, ma da un punto di vista strettamente legale, se non è scritto nell'ordinanza di libertà alternativa alla detenzione, che non può essere messa su Facebook, in qualche maniera ha diritto questa persona, al di là di ogni giudizio, di essere su Facebook e metterci quello che vuole? Ma io credo proprio di sì, nel senso che il tema però, secondo me, va visto da un altro punto di vista. Ovviamente io penso che non siano ancora pubbliche le motivazioni dell'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza, ma io credo, e ovviamente sto facendo un'interpretazione senza conoscere i fatti, ma nessuno penso li sappia, che il tema sia quello, potrebbe essere quello, che attraverso le foto di Facebook dimostrava di non essere al lavoro come invece da ordinanza durante le ore di lavoro, e quindi ha disatteso l'ordinanza non tanto perché postava su Facebook, ma perché invece si doveva trovare al lavoro in quel momento. E questo credo sia la logica. Se invece la logica fosse, siccome posta le foto su Facebook viola l'ordinanza, beh, mi sembra un tema piuttosto grave su cui bisognerebbe riflettere. Ovviamente le decisioni si rispettano sempre dei giudici, ma si possono anche appellare e si possono anche discutere, ecco, questo sì, rispettare sì, ma non condividere, ecco, questo è il mio punto di vista. Quindi diciamo che ha senso se attraverso queste foto è come se un lavoratore in orario di lavoro si facesse una foto in cui è inequivocabile che in quell'orario si trova da un'altra parte a fare tutt'altra cosa, gli viene fatto un provvedimento disciplinare. Nel caso che la ragazza in questione, Doina Mattei, sia andata in spiaggia o sia andata in un bar a mangiarsi i pasticcini mentre doveva stare al lavoro, avrebbe senso. Ma messo però queste foto usiamo il condizionale. Sì, Gianluca, sì, infatti, io non se, chiaro, se, codice, se fosse, sì. Ma se non fosse così, se quelle fossero foto che magari appartengono a un periodo in cui per lei era lecito, aveva un permesso, magari era lecito andare dove volesse, andarsi anche in spiaggia, l'espressione della propria serenità, felicità, può essere imputabile in qualche maniera? No. Andremo contro ogni, secondo me, diritto costituzionale alla rieducazione. Lei ha fatto una telefonata, probabilmente non è molto capace di esprimere i suoi sentimenti in italiano, ma si sentiva il pentimento, anche se poi si è un po' incartata, mi permetto di dire, a un certo punto nella sua spiegazione. E quindi ciò non significa che non si possa condurre una vita il più possibile serena, tenendo presente quello che è successo. E Facebook è uno strumento anche per comunicare agli altri al mondo le proprie sensazioni. Se invece fosse stato scritto nell'ordinanza che non si poteva usare Facebook, certo ci sarebbe stata una violazione dell'ordinanza, ma stiamo parlando veramente di qualcosa che trovo abbastanza ingiusto. Questo è il mio personale punto di vista. E tema nuovo, Gianluca, quindi qua si mischia un argomento poco conosciuto, l'etica, il diritto, e si rischia di fare un po' di confusione, perché dal punto di vista etico io capisco anche invece i familiari della vittima. Però insomma è un tema sicuramente complicato. Mi sto rendendo conto che questo è il primo campanello d'allarme, che qualcosa sta accadendo comunque nella valutazione dell'esistere, dell'esprimersi, di avere libertà di dare testimonianza di se stessi. Mai prima c'era posto il problema se un detenuto in misura alternativa alla detenzione potesse o non potesse comunque esprimere o dare modo di far interpretare un suo stato d'animo attraverso i social network. Questo è nuovo. E invece io su questo penso che sia molto importante lavorare, perché è un tema nuovo, ma un tema che va affrontato non prima ancora che normativamente, dal punto di vista anche culturale, poi da una cultura e da una conoscenza dello strumento, dei limiti, ma delle opportunità, poi nasce una norma. Quindi adesso sarebbe una follia vietare su questa giurisprudenza, non so, l'utilizzo di Facebook, se si dovesse andare in quella direzione. Dall'altro lato però bisogna pensare che si muovono dei tassi abbastanza delicati, perché la vicenda è abbastanza forte, c'è un omicidio dietro questa storia, quindi ci sono delle familiari che hanno sofferto. Come valutiamo? Qual è il contemperamento degli interessi? Io credo che prima ancora del diritto qua ci sia la cultura, l'etica, e poi possa arrivare il diritto a sancire quelle che sono le regole che noi ci diamo. Perché potrebbe essere corrispondente l'immagine, non so, di una persona in libertà in alternativa alla detenzione, che magari sta a un bar e chiacchiera e sorride con gli amici, gli fa una foto a qualcuno e la pubblica su un giornale. È equivalente secondo te, o c'è una circostanza additiva in più? Scusa se insisto, vorrei capire bene. Il fatto che mettere delle foto su Facebook dà un'idea generale di benessere o di narcisismo, o c'è ancora un giudizio in parte morale sul fatto stesso che qualcuno metta delle sue foto su Facebook? Poi una foto in costume da bagno, quindi ancora di più c'è l'accezione, diciamo, di ostentare una disponibilità, una bellezza, qualcosa che è contrario al segno palese della mortificazione. Al di là dell'interpretazione giuridica, Gianluca, credo che ci sia, che ho già dato prima, credo che ci sia comunque un qualcosa di moralità che forse abbia, mi permetto di dire, forse condizionato un po' il giudizio, comprensibilmente da alcuni punti di vista, però il giudizio dovrebbe essere giuridico e non morale. La mia sensazione, ma è soltanto, ovviamente dovrei leggere le motivazioni, è che c'è una valutazione morale, e questo preoccupa. Poi possiamo parlare in un'altra trasmissione dei problemi che un social network può generare, però non possiamo pensare che si faccia un giudizio morale su uno strumento che magari poco si conosce, e a quel punto da lì prendere una decisione così forte, al di là del fatto che, come ho già detto, lo ribadisco per chi non avesse ascoltato, secondo me non è perché ha postato la foto su Facebook, ma perché magari c'erano altre ragioni dietro questa revoca della semilibertà. Comunque è stato molto chiaro e interessante andare a sviscerare l'aspetto giuridico, che oggi nessun giornale, in fondo, si fermano tutti sul fatto è bene o non è bene, è stato giusto o non è stato giusto. La contrapposizione tra il titolo questa è un'assassina e vedere lei sorridente che si mangia il pasticcino. Oggi almeno abbiamo visto che comunque c'è una materia che è ancora tutta da sovrascrivere, tutta da ripensare. E non entriamo in merito poi al dispositivo del tribunale, perché dobbiamo ancora capire esattamente qual è il vero motivo. Grazie Giuseppe Vaciago, ci sentiamo tra un istante dopo le informazioni della borsa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Melog, cronache meridiane. Ricordi che è successo quel giorno? Io ho alzato la mano per fermarla, non l'ho fatto con un ombrello, non l'ho usato come una spada, non l'ho usato come un'arma, nessuno mai non poteva pensare prima di succedermi a me che una persona può morire da un ombrello. Non volevo litigare con lei e ci sono stati anche testimoni che dichiarano questa cosa. I fatti però sono che con l'ombrello Tullia Mattei ha ucciso Vanessa Russo perforandogli l'orbita e rompendogli un'arteria cerebrale. La ragazza è morta per questo, non è che giocava con l'ombrello, questi sono i dati di fatto. Leggo qualche sms, naturalmente queste merde di zingari solo forni crematori, una serie di messaggi dicono questi, ma non è il livello di riflessione che mi auguravo questa mattina. Invece più attento un ascoltatore, Gian Piero, che dice: che in realtà il suo pensiero va esclusivamente alla famiglia della ragazza uccisa, che è stata uccisa in metropolitana, e quando sente parlare che questa persona può andare in semi-libertà gli viene da vomitare. Però questi sono i dispositivi di un tribunale, non vanno discussi. Un altro ascoltatore invece mi ricorda che la storia del diritto penale è che nel nostro paese è che le pene devono essere in qualche maniera indirizzata alla rieducazione del reo, non sono pene risarcitorie come in altri paesi che arrivano anche fino a prescrivere la pena di morte. Quindi nell'ambito di una pena volta alla rieducazione può anche starci che una persona decida a un certo punto della sua vita di aprirsi un profilo Facebook e metterci le cose sue. Angela Camuso, buongiorno. Buongiorno. È la giornalista che ha intervistato Doina Matei, che l'intervista è andata a Mattino 5. Come l'hai intervistata te? Perché nessuno l'aveva mai intervistata, diciamo, è stata piuttosto schiva e si è evitato di diventare un personaggio. Un colpo di fortuna. No, era importante intervistarla perché insomma stanno parlando tutti di lei. Io volevo... Quando è accaduto? Piccola... Quando l'hai incontrata? Ieri ci siamo sentite al telefono. Quindi ho pensato di chiederle qualcosa rispetto allo suo stato d'animo di oggi, anche a quello che è successo nel 2007. Quindi è stato nel suo ultimo pomeriggio di semilibertà l'intervista? Esatto, nel suo ultimo nessuno immaginava, in realtà io non immaginavo che sarebbe tornata in carcere, ma a tal proposito volevo dire una cosa. In realtà il profilo Facebook che ha aperto Doina è un profilo sotto nome falso, e questo è un dato fondamentale. Lei in qualità di detenuta in semilibertà non ha la possibilità, anzi ha il divieto di per esempio comunicare con pregiudicati eccetera. È chiaro che se tu apri un profilo falso diciamo eludi in qualche modo i controlli. Ora, anche le policy di Facebook in teoria tutti lo fanno, ma in teoria non dovresti farlo, non puoi aprire un profilo un nome falso, sì. Esatto, cioè comunque soprattutto se sei in un regime di semilibertà. Quindi adesso è chiaro che il clamore mediatico ha fatto diciamo così attenzionare la sua situazione da parte delle forze dell'ordine, che invece in tantissimi altri casi non riescono diciamo a controllare tantissimi detenuti che sono nelle stesse condizioni, perché ci sono detenuti in semilibertà. Sotto che nome era il suo profilo Facebook? Guarda, su questo non ti so rispondere, perché questa è una notizia che è uscita da un quotidiano che ha riportato insomma le sue foto, che poi effettivamente esistono, però lei non me l'ha voluto svelare. Ma evidentemente la dritta ai giornali è venuta da qualcuno che sapeva che sotto questo nome c'era lei, perché sfido chiunque a riconoscere Doina Matei nella foto di una ragazza dopo 9 anni. Esatto, ma io volevo però soffermarvi anche sulle parole che ha detto Doina a me, cioè sulle cose che avete sentito, no? Perché io poi questa mattina in trasmissione ho avuto anche la fortuna di intervistare in diretta una delle due testimoni oculari di quel delitto. Allora Doina dice io sto pagando eccetera eccetera, mi dispiace, e poi dice questa cosa: io mi sono difesa semplicemente alzando l'ombrello e praticamente non pensavo di uccidere. Ora il punto è proprio questo, no? Perché poi si è dibattuto in tutto il processo su questo. Cioè, comunque omicidio preterintenzionale, quindi ecco, è al di là della sua intenzione. Sì, diciamo che il giudice ha deciso questo, il PM fino all'ultimo invece era propenso per l'omicidio volontario, ed è questo forse che ancora lascia divisi l'opinione pubblica. Perché? Perché per esempio la testimone oculare che ho sentito oggi dice: io l'ho vista e ho visto che lei ha fatto proprio il movimento, sai, il movimento con il braccio come quando tu hai una spada. E quindi il ragionamento era: se io prendo un ombrello, cioè un conto che io prendo un ombrello e lo do in testa così a una persona, no? Appoggiando, diciamo, è un conto glielo infilo in un occhio, certo. È un conto che io lo brandisco con la punta e miro comunque verso la faccia della persona. Ora secondo me è questo il problema, cioè che nonostante che il processo sia finito e ci sia stata una condanna definitiva, l'opinione pubblica comunque ancora adesso non sta tutta dalla parte del giudice, cioè molti stanno dalla parte del pubblico ministero che ritiene un omicidio volontario. Tanto più la famiglia sarà massacrata nell'animo da questa idea, certo. Esatto, è inconcepibile che tu dopo 9 anni esci e te ne vai al mare e fai le foto in costume e sei sorridente. Cioè il problema è questo, è un problema di una verità storica presupposta, che a volte può non coincidere con la verità giudiziaria, perché anche questa è una realtà, non sempre la verità giudiziaria coincide con la verità storica, e quindi di fatto abbiamo un'opinione pubblica che ritiene che questo sia stato un omicidio volontario, e quindi ritiene profondamente ingiusto che un'assassina, perché insomma se è un omicidio volontario, allora chi commette un omicidio volontario è un assassino, quindi c'è una parte dell'opinione pubblica che ritiene che è inconcepibile. Sì, però siamo in un paese, grazie a Dio, in cui valgono le sentenze, l'opinione pubblica può esprimersi, perché sennò non ci sarebbe diritto. Fermati un attimo, Angela, fermati un secondo. Francesco, buongiorno. Francesco. Buongiorno. La stiamo ascoltando. Mi ci ha chiamato. Volevo rappresentare un concetto. Il semilibero di per sé è semilibero, cioè la sua libertà è sottoposta. Lei è un avvocato, Francesco? Sì, un avvocato per anni. Allora ci aiuti a capire meglio. Cercavo di spiegare, il semilibero è sottoposto a condizioni, cioè la sua libertà è una semilibertà, cioè non è una libertà piena. Le condizioni che sono imposte dal tribunale di sorveglianza, che è la sezione del tribunale che si occupa appunto dei provvedimenti alternativi alla detenzione, tra i quali la semilibertà, può imporre nel suo provvedimento una serie di restrizioni. Una restrizione assoluta e certa, che viene imposta sempre con il provvedimento di semilibertà, è quella di non potersi allontanare dal comune in cui si sta scontando la semilibertà, ragione per la quale se per esempio dalla fotografia della quale lei ha parlato si evincesse che il soggetto era fuori di quel comune, evidentemente ha oltraggiato il provvedimento. Concorda con quello che ha detto il suo collega Vaciago, se da quelle foto si evince che ha violato i termini della semilibertà è palese. Non sì, c'è ma fra questi quelli del comune, cioè il soggetto sottoposto a semilibertà non può andare dove ritiene opportuno. Oddio, il mare c'è anche a Venezia, se lei sta a Venezia... Ma se per esempio lei va a Jesolo, che è provincia, no. Cioè ci sono delle restrizioni proprio indicate, che sono quelle del comune in cui il soggetto sta scontando la misura alternativa. Quindi avvocato, mi conferma che ci possono essere delle ragioni proprio di tipo tecnico inoppugnabili? Certo, e non c'entra. Ma ce n'è anche un'altra. Al soggetto che è sottoposto alla semilibertà, in moltissimi casi, per non dire quasi sempre, viene imposta la restrizione della trasmissione dei dati, cioè non può essere in moltissimi casi, dipende dai tribunali, ma in moltissimi casi è inibito anche l'uso del telefono cellulare, per esempio, che è un servizio di trasmissione dei dati, perché siccome il soggetto la sera, quando arriva in carcere e deve essere sottoposto a restrizione, pur essendo in un padiglione che è quello per i semilibri, non può portare con sé il telefono cellulare perché è semilibero, è possibile che sia sottoposto a restrizione anche nel periodo successivo, perché sennò si avrebbe un collasso della imposizione che prevede che in una parte della giornata egli possa usare il telefono cellulare e un'altra parte no. Però avvocato, mi permetta un attimo, la sua riflessione vorrei farla insieme a lei. Questo fa sì che in fondo questo caso è servito, perché nei dispositivi futuri i magistrati mettono anche l'inibizione di permanere in un social network, perché se la libertà in quel momento è ristretta, quindi la tua figura non può essere vista dal mondo, non puoi mostrarla al mondo, va da sé che vale anche ormai... Quando lei sta parlando del social network deve parlare di quello che c'è prima, cioè la trasmissione dei dati. Certo, esattamente. Non posso trasmettere dati. È indipendente dal mezzo che io dall'utilizzo del sistema. Forse per questo però ha fatto un profilo anonimo, cioè con un nome diverso, perché sapeva che non poteva trasmettere dati. Peggio mi sento allora, perché non solo io ho oltraggiato il provvedimento del tribunale di sorveglianza, ma ho utilizzato anche un sistema fraudolento. Questa è la ragione per la quale il magistrato di sorveglianza, che non è quello deputato a revocargli il provvedimento, ha effettuato una sospensione cautelare, perché poi il provvedimento di revoca della misura alternativa, cioè della semilibertà, deve essere convalidato dal tribunale di sorveglianza. Quindi la questione non si ferma qui. Il magistrato di sorveglianza, siccome ha rilevato gravi indizi sull'oltraggio al provvedimento, ha emesso un provvedimento cautelare, e quel provvedimento poi sarà valutato come revoca. Cosa rischia? Cosa rischia a questo punto? Cosa rischia a questo punto? E quindi ritorna dentro. Verrà un'udienza, verrà fissato, adesso è dentro per una cautela, sì, emessa dal magistrato di sorveglianza. Il magistrato di sorveglianza poi farà una relazione, la trasmetterà al tribunale di sorveglianza, il quale tribunale di sorveglianza fisserà un'udienza, la signora con il suo avvocato comparirà in quell'udienza, avrà letto naturalmente prima il suo difensore o lei stessa gli atti che sono depositati nel fascicolo, leggerà, si difenderà e il tribunale di sorveglianza, sentito il procuratore generale, che è il pubblico ministero deputato a intervenire in udienza davanti al tribunale di sorveglianza, è il difensore della parte o la e anche la parte stessa, deciderà se revocare oppure non revocare. Quindi il provvedimento al quale è sottoposto adesso la signora è un provvedimento di cautela. Allora, avvocato, può restare soltanto un attimo in ascolto perché devo dare un'interruzione, però mi interessa farle un'altra domanda, visto che ci fornisce delle letture così esatte di tutto ciò che riguarda appunto la semilibertà, che vale la pena però di fare questo approfondimento, perché insomma, anche se il divieto esplicito di trasmissione dati va da sé che è nel dispositivo, il fatto che probabilmente non è ancora scritto a nessuna parte il divieto di mettersi sui social network potrebbe rappresentare un precedente per ispirare, diciamo, i prossimi dispositivi. Almeno si sa prima che non si può fare. Fermiamoci un istante, poi riprendiamo. Melog, cronache meridiane. (800) 24 0024. Devo dire, sono soddisfatto. Abbiamo capito qualcosa in più rispetto a quello che oggi leggevamo sui giornali, che erano divisi fra il giudizio di ordine morale, c'è diritto a sorridere, come dice Gad Lerner, cosa c'è di male a mettere una foto su Facebook, e l'avvocato che è ancora in linea con il nostro ascoltatore e l'avvocato Vaciago, che abbiamo sentito prima, esperto proprio in diritto legato agli aspetti digitali, ci dicono che in realtà nel dispositivo di semilibertà c'è proprio scritto, comunque quasi sempre, che non si possono trasmettere dati. Il trasmettere dati corrisponde anche a lasciare comunque proprie immagini su Facebook. Poi c'è la circostanza peggiorativa del fatto che abbia aperto un profilo con un nome non suo, perché probabilmente sapeva che non avrebbe potuto farlo. Sentiamo prima Emilio un attimo. Emilio, buongiorno. Buongiorno, ma chiamavo per vedere due pesi e due misure. Mi sembra di vedere un astio come se potesse riscattare la morte di questa povera ragazza uccisa. Non credo che... Ma l'astio da parte di chi? L'astio nostro? Non vostro, a parte del pubblico in generale che è scandalizzato da questa cosa. Io cito sempre i più cialtroni per dare l'idea che comunque esistono, sì, anche loro, se no farei soltanto l'idea che ho soltanto, sì, persone riflessive che mi seguono. No, ci sono anche cialtroni. Però i più cialtroni non li hai mai sentiti sbraitare quando quel ragazzo che ha ucciso una ragazza romena con un pugno alla metropolitana di Roma, certo, dopo due anni è uscito. Ha perfettamente ragione, lo stavo per dire, è un caso speculare, infatti. Un pugno, un pugile, mi sembra uno forte comunque, con un pugno ha ammazzato una ragazza. E due anni, lui si può far fotografare come gli pare su tutti gli scogli del mondo e va tutto bene, perché non è uno zingaro. Io lo trovo veramente disgustoso. Oltretutto non credo che questa ragazza sia una spadaccina provetta che potesse, come una specie di D'Artagnan, mirare un occhio e farlo. Cioè, credo che sia, con tutti i benefici, diventare quello che si vuole. C'è anche un'altra cosa, è vero che la restrizione impone di non veicolare i propri dati, però ci dovrebbe essere una ragione, dice non veicolare i dati perché può inquinare qualche cosa. In quel caso lì che cosa succede? No, perché sei in semilibertà, comunque stai scontando una pena, qualcosa... In qualcosa dovrei essere penalizzato, sì, certo. Siccome siamo un paese civile, non ti dico di andare in giro con la gogna attaccata al collo, però se permetti, quello che può far chiunque non puoi farlo. Fermiamoci un istante. Angela Camuso, avete da aggiungere qualcosa? Poi vorrei sentire Francesco, il nostro avvocato che ci ha chiamato. Io posso solo aggiungere rispetto a quello che ho sentito parlando con lei, cioè lei comunque sia, da una parte dice di stare male, di soffrire, di pregare tutti i giorni per questi sono fatti ragazza, suoi, non hanno un valore oggettivo, però quello che dice lei. Di fatto io non l'ho sentita, eppure io gliel'ho stimolata, abbiamo parlato 11 minuti al telefono, io non ho sentito una parola di pentimento, cioè non ho sentito dire io ho sbagliato. io ho fatto una cosa gravissima che non avrei mai dovuto fare. Cioè, io non ho sentito queste parole da lei, io ho sentito soltanto, io ho alzato l'ombrello e perché lei veniva verso di me, non potevo mai immaginare che si faceva male. Io ho sentito solo questo e quindi diciamo che al di là di tutto, dal punto di vista però mantiene la posizione della sua difesa, però non dice una virgola in più che potrebbe compromettere quello che era lo schema della sua difesa, è chiaro. Capisci, che lei stava lì con l'ombrello e questa si è buttata addosso, chiaro, però non è certo dire questo e poi dire dall'altra io sto soffrendo, i miei figli stanno pagando per quello che non hanno commesso, soffro, Angela, che non sia una mammoletta sprovveduta, mi sembra chiaro, non è arretrata di una virgola rispetto a quello che ha detto durante la fase processuale per difendersi. Avvocato Francesco, la sua ultima riflessione proprio su questo: sarebbe il caso di aggiungere in maniera esplicita divieto di pubblicare le proprie immagini social network? Mi scusi, posso fare una riflessione? Certo, ha detto lei stesso prima. Sì. Allora, lei ha fatto una riflessione acuta quando ho parlato di precaria intenzione, perché ho sentito dire una serie di cose imprecise dalle persone che la stanno ascoltando. Lei ha parlato di oltre l'intenzione. Questa è la sentenza. È un concetto abbastanza chiaro. Oltre l'intenzione non vuol dire che il soggetto non voleva commettere l'atto, vuol dire che il soggetto voleva commettere comunque un atto di lesioni, ma non ammazzare. Quell'atto di lesioni è stato superato dagli eventi, cioè egli comunque voleva procurare una lesione. Cioè poteva volerle togliere un occhio, d'oro. Ecco, diciamo, nella migliore delle ipotesi togliere un occhio ma non ammazzarlo. Perfetto, benissimo. Quindi che non è una bella cosa comunque. Come quindi lei si rende perfettamente conto. Solita un'ombrellata col manico come fanno le signore in metropolitana quando vengono importunate. Bravissimo, quindi come lei perfettamente ha spiegato stamattina, stiamo parlando di un soggetto che ha una, diciamo, tecnicamente raffigurazione criminale importante, no? Questo è dal punto di vista strettamente tecnico, perché in tribunale non si fanno valutazioni etiche, morali, si discute di diritto. Per quanto attiene poi invece all'aspetto per il quale io ero intervenuto, addirittura nei provvedimenti di applicazione della sorveglianza speciale che viene applicata dal tribunale in diversa composizione e in diversa sezione, è inibito al soggetto che è sottoposto a sorveglianza o a sorveglianza speciale di che è libero, no? E che quindi è solamente degli orari in cui egli deve essere rinvenuto a casa, cioè non può rientrare dopo le ore 9, 21 di sera, e non può uscire prima delle 7 della mattina. A lui addirittura è inibito di possedere un telefono cellulare. Quindi ragione di più, se è inibito di possedere un cellulare non potrà mai avere possibilità tecnica di pubblicare immagini su Facebook. Molto chiaro, grazie a Francesco che ci ha aiutato in questa trasmissione, grazie a Valerio Rocchetti e a Fabrizio Intonti, alla prossima, cioè a domani.